want me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me. Soundcheck. Microphone check. Il suono della musica di JJ Telesforo. Eccoci, siamo prontissimi, buon pomeriggio e buona domenica a tutti voi in contatto con la prova del suono di Radio 24 da Gegè Telesforo e dal nostro Francesco Tromba. Buon pomeriggio Francesco. Buon pomeriggio a tutti. E ieri hai vissuto un momento di gloria, hai condotto il primo programma nazionale sulla radio, forse della tua vita. Sì, della mia vita in assoluto. Com'è andata? Bene, bene, devo dire che alla fine, diciamo, pensavo fosse molto più difficile. Il feedback dal tuo paese com'è stato? Impressionante, credo. Grande festa. Festa è come se avessero vinto i mondiali i nostri italiani. Sì, più o meno. Vabbè, infatti ringrazia subito nonna Tromba, non so come abbia fatto, ma credo che ci siano dei corrieri di prelibatezze che arrivano quotidianamente dalla Calabria. La ringrazi per questi due panini di dimensioni abominevoli. Non vedevo un panino così condito e di queste dimensioni forse dagli anni 70. Certo, se no non riempio, se no il panino poi tra un'ora ti viene di nuovo fame. Non voglio neanche aprirlo per capire che cosa c'è dentro. Mi fido, ma lo mangeremo dopo il programma, perché sono sicuro che dopo i primi due morsi di questo panino abominevole potremmo andare in un down raccapricciante. Eh sì, magari ti si impasta pure un po' la bocca. Credo proprio di sì. Diamo il via all'appuntamento di oggi con la musica, anticipandovi grandi concerti. E qualche settimana fa anticipammo che sarebbe arrivato, sbarcato in Italia con tutta la sua band, il suo bellissimo spettacolo, dopo una gloriosa tournée in Europa, uno dei campioni di tutti i tempi della black music, ovvero il meraviglioso Stevie Wonder, che credo che prima o poi dovrà subire un processo di beatificazione da parte di Papa Francesco, che sappiamo sia anche un buon appassionato di musica. Beh, nel mondo della musica penso sia già santificato, no? Stevie Wonder, assolutamente sì. Quando suona Stevie Wonder? È proprio stasera a Lucca. È per questo che ve l'ho chiesto, quindi se vi trovate in zona non perdete tempo, non c'è di meglio da fare questa sera in quella zona. Andate a Lucca, bellissima città, partecipate al festival, partecipate al concerto di Stevie Wonder, che assolutamente è da non perdere, uno di quei concerti che poi si ricordano per tutta la vita. Eh sì, è sicuramente da proprio prendere il biglietto e appenderlo in bacheca. Beh, i prezzi li avevamo già lanciati qualche settimana fa, però insomma sono salati, ma è chissà se si trova ancora qualcosa, forse con qualche bagarino arriviamo a dei prezzi da finale di Champions. Eh sì, mi sa che i biglietti saranno quasi tutti finiti. Bene, allora tocca essere soltanto fortunati e buon concerto a tutti coloro che riusciranno a vedere questa sera Stevie Wonder a Lucca, e naturalmente lo ascoltiamo anche noi qui al Soundcheck di Radio 24 in questa domenica, la penultima del nostro Soundcheck. Il brano è So What The Fuzz, Stevie Wonder al Soundcheck. Y'all ready? We gon' get it. I say what the fuzz? I say what the fuzz? I say what the fuzz? Listen, friends, listen. What the fuzz? Ma sono tantissimi gli appuntamenti dal vivo nel nostro paese, allora caro Francesco cerchiamo di lanciare subito le date e i nomi degli artisti protagonisti nel nostro paese nei prossimi giorni. Sì, diciamo, se non siete così fortunati da essere vicino Lucca, comunque da poter andare a Lucca, sempre questa sera a Roma, sempre per luglio suona bene la rassegna dell'Auditorium Parco della Musica, ci saranno tre donne meravigliose come Cat Power, Johannes Policewoman e Susan Vega. Sempre questa sera a Roma, alla Città dell'Altra Economia, ci sarà Bombino, che è un Jimi Hendrix del deserto, potremmo dire. Il Jimi Hendrix del deserto, è vero. Anche a Salò ci sarà Regina Carter sempre questa sera per l'estate musicale sul Garda. Sì, e credo che proporrà il concerto si rifà le musiche dell'ultimo disco Southern Comfort, quindi coniuga Regina Carter con il suo violino e la sua band la musica dei pionieri, la musica che ascoltava suo nonno che era un minatore. Sì, deve essere comunque sicuramente tanta bella musica, no? Assolutamente sì, tanto talento e tante belle note. E sempre questa sera a Prato Vecchio ci sarà Stefano Bollani per la rassegna Pianoforte. Vabbè, ma tanto Bollani suona tutte le sere, sì, no? Però se vi trovate in zona, il concerto, diciamo, clou sarà il 26 a Roma, sempre per Luglio suona bene, ci saranno Herbie Hancock e Wayne Short. E questo è da non perdere, gli appassionati di musica non si lasceranno sfuggire questa occasione di vedere insieme due musicisti che più volte hanno collaborato discograficamente ma anche dal vivo, due veterani del jazz. Allora, visto che prima abbiamo parlato di Stevie Wonder, adesso hai annunciato il concerto di Herbie Hancock, io vorrei fare 2 più 2 4, ovvero due piccioni con una fava, e mettere insieme Herbie Hancock e Stevie Wonder in un classico del jazz scritto da William Christopher Randi, ovvero il celebre St. Louis Blues, qui nella versione di questi due giganti della musica, Hancock e Stevie Wonder, insieme al soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Dopo le strade in diretta, di nuovo in contatto con il Soundcheck, la prova del suono di Radio 24, e prima di verificare gli artisti presenti nei prossimi giorni nel nostro paese, volevo chiedere al nostro Francesco Tromba se ha chiesto informazioni, così come avevo richiesto, su YouTube, che pare abbia stretto un po' i rubinetti a un certo tipo di musica, a un certo tipo di artisti. Forse gli artisti più giovani faranno più fatica a pubblicare su YouTube i loro video, così come di solito facevano gli indipendenti. Che cosa è successo o cosa sta succedendo? Sì, allora YouTube sta lanciando il suo servizio di streaming online, come sono i più famosi Spotify. Questo servizio si chiamerà YouTube Music Pass. Mentre le major principali come la Sony hanno già firmato questo accordo, che prevede magari delle royalties comunque equilibrate rispetto a quelle che vengono offerte alle etichette indipendenti, che invece non hanno accettato queste condizioni. Quindi royalties che vengono stabilite in base al numero di visioni e di click. Anche, diciamo, penso in base al fatturato e al prestigio dell'etichetta stessa, quindi le indipendenti vengono considerate ovviamente un livello più in basso rispetto alle major. Per questo motivo diversi artisti rischiano di non vedersi pubblicare i propri video, come ad esempio i più famosi sono i Radiohead o i Sigur Rós, anche i Franz Ferdinand. Sì, che pur essendo nomi accreditati in tutto il mondo sono sempre degli artisti indipendenti, cioè non appartengono nella distribuzione del loro materiale a delle major. No, infatti. Il problema principale è che magari ci sarà una cosa assurda, nel senso che loro con i loro video e il loro account ufficiale non ci saranno, però ci saranno comunque la loro musica, perché la caricheranno degli utenti privati che bastano mettere il loro video ufficiale e potranno comunque pubblicare la musica. Ecco, ma a proposito di questo, avrei notato che anche i video estratti per esempio da trasmissioni importanti della RAI sono stati eliminati da YouTube, proprio dalla RAI stessa, perché erano messi online dagli utenti, dagli appassionati di musica piuttosto che di questo o di quell'artista, però la RAI ha fatto in modo che YouTube eliminasse completamente la visione agli utenti di tutto questo materiale. Sì, si parla di 40.000 video, ma spero che la RAI faccia un suo servizio, magari in una sua piattaforma dove dovrei riproporre tutti questi video, perché altrimenti andrebbero persi, cioè ad esempio lo stesso doc dove c'eri anche tu, cioè... Infatti speriamo che possano riproporre in qualche modo alcuni dei momenti più importanti di quella bellissima trasmissione di musica alla quale non parteciparono, perché ancora la band non era messa su da Jean-Paul Blumunic, che poi è il suo leader, ovvero il leader degli Incognito, e quindi non parteciparono gli Incognito, che invece tornano per l'ennesima volta in Italia. L'Italia è uno dei paesi che da sempre segue le vicende degli Incognito e di Jean-Paul Blumunic. E dove suoneranno gli Incognito? Mercoledì 23 a Bari al Teatro Petruzzelli, e il 24, il giorno dopo, saranno a Milano a Villa Arconati. E gli Incognito approdano al soundcheck con Above the Night. Avviciniamo al GR di Radio 24 delle 16, puntualissimo arriverà qui su Radio 24, ma abbiamo ancora qualche minuto, quindi possiamo anticipare che un altro artista sta per sbarcare nel nostro paese, e insieme agli Incognito potremmo andare a vedere anche Gregory Porter, vincitore dei Grammy Award dell'ultima stagione come miglior pubblicazione jazz vocale. Arriva in Italia, esattamente dove, mio caro Francesco Tromba? E anche lui a Milano, a Villa Arconati, la stessa sera degli Incognito, o altrimenti sarà presente anche al Locus Festival di Loco Rotondo, insieme a Laurent Vula, che sarà si esibirà il 26, il giorno precedente, e invece lui sarà protagonista il 27. Allora, Gregory Porter dall'ultimo album molto divertente, molto carino, tra l'altro è approdato a un'etichetta importante come la Blue Note, e questo lo ha aiutato abbastanza, perché una cosa è essere un artista indipendente, una cosa poi entrare a far parte di una scuderia importante e quotata come quella della Blue Note. L'album si intitola Liquid Spirit, il brano, una sua composizione, Musical Genocide, qui al soundcheck di Radio 24, e poi arriva l'informazione di Radio 24. I do not agree, this is not for me, no, musical genocide. I will not commit, nor will I submit to musical genocide. This is not for me, I won't let it be, no, musical genocide. Soundcheck. Il suono della musica. Chiama Alice Russell, questa cantante dalla voce nera ma è bianchissima, protagonista della scena soul e R&B in Inghilterra ormai da 15 anni a questa parte. Il brano, una sua composizione, intitolato For a While, e certamente Alice Russell è molto attesa anche in Italia, però mi sembra che quest'estate sia difficile poterla seguire dal vivo dalle nostre parti, ma gli amici di Radio 24, gli appassionati di musica che si troveranno a Londra in questi giorni, avranno sicuramente il buon gusto di non perdere questa occasione, di seguire le vicende di Alice Russell live, esattamente dove? Al Ronnie Scott, il 25 e il 26 di luglio. E questa è la cosa più bella, cioè un artista protagonista della scena soul e R&B che ha ancora il gusto di salire su un palcoscenico prestigioso come quello di un jazz club come il Ronnie Scott. E devo dire che una delle cose più belle è vedere il concerto in un jazz club, perché sei proprio proprio a un passo dall'artista, a un passo dagli strumenti, e personalmente da musicista la cosa bella è gustare anche gli sguardi, l'intesa che c'è fra il leader e i suoi musicisti, vedere come funzionano le dinamiche musicali all'interno di una band. Sì, è un'atmosfera totalmente diversa rispetto comunque ai grandi palchi, ai grandi festival. Hai proprio, cioè, l'impressione di essere davanti alla musica, cioè sei proprio, la puoi quasi afferrare, no? La puoi afferrare, è verissimo, perché poi io personalmente, quando mi trovo a seguire i grandi eventi, i grandi concerti, le grandissime star, o hai una postazione privilegiata e quindi spendi un sacco di soldi, a meno che tu non sia accreditato come stampa o come artista, oppure sei costretto a seguire lo spettacolo con il binocolo. Eh sì, perché sei proprio lontano dal palco, non riesci neanche a capire proprio l'interazione che c'è tra i musicisti. Meglio la piccola dimensione, quella più intima, quella del jazz club, ma anche quella dei festival jazz. Personalmente penso sia così. Sono pienamente d'accordo. È un signore che invece viene dalle nostre parti e si diverte tantissimo con la sua musica, è il signor Omar, perché ultimamente ha frequentato anche Bologna, perché ha ancora il gusto da musicista di jazz di andare in giro per il mondo e quindi anche in Italia facendosi accompagnare da band locali. Il signor Omar è presente qui al Soundcheck Radio 24 con Ordinary Day. Non so se arriverà in Italia, ma in Italia arriverà uno dei suoi pigmalioni, ovvero il bravissimo Giles Peterson. Che cosa farà Giles Peterson, che è una star della radiofonia inglese, per anni alla BBC, adesso continua a produrre radio, programmi televisivi, a produrre concerti, a fare la direzione artistica di festival importanti? Dove e perché dovremmo andare a vedere Giles Peterson? Il 9 agosto sarà sempre al Locus Festival, al Loco Rotondo. Hai capito? Loco Rotondo, si beve bene, si ascolta bella musica e hanno anche buon gusto. Presenterà il suo progetto dedicato alla musica brasiliana, quindi farà un DJ set improntato su queste sonorità latine, diciamo. Lo so, perché è stato anche pubblicato un album molto interessante, sempre prodotto da Giles Peterson, che ha coinvolto vari artisti brasiliani e non, e quindi per celebrare Giles Peterson ma anche la musica di Omar, il brano è Ordinary Day, sempre qui al Soundcheck di Radio 24. Oh, zippa, tucutu, zippa, zippa, tucutu, zippa, zippa, tucutu, zippa, zippa, tucutu, zippa, zippa, tucutu, zippa, zippa, tucutu, zippa, zippa, zippa, zippa, zippa. I just like to say my love has grown to envy. Now that I've got two babies of my own. Give me purpose and then it keeps away by. Can you hear me? Mi. Sound check. Il suono della musica. Uno dei campioni della world music di tutti i tempi, anzi dovrei dirlo l'artista contemporaneo che ha fatto conoscere in tutto il mondo il groove tipico africano, e stiamo parlando di Youssou N'Dour, che ha anche scalato le classifiche discografiche di tutto il mondo quando insieme a Nene Cerri realizzò quella splendida composizione intitolata Seven Seconds. Youssou N'Dour, protagonista del soundcheck con questo brano intitolato Cinebar, brano tratto tra l'altro da un album di grande successo ma del 1990 per la Virgin, album intitolato Set, sarà protagonista di un bellissimo concerto nel nostro paese. Io l'ho visto dal vivo tanti anni fa e rimasi veramente sorpreso dalla forza ritmica della sua band, che naturalmente vede sul palco alcuni fra i più importanti percussionisti senegalesi. Sì, Youssou N'Dour è nato a Dakar esattamente nel 1959, è un po' più grande di me. ma ancora sul palco, con la grinta, l'energia ritmica che lo sostiene, dimostra sempre una vitalità non indifferente. Lo sai come si chiama il genere che ha reinventato, diciamo? Qual è il genere che ha reinventato? Si chiama Ambalax. Ambalax, pensate. Deriva, diciamo, da un misto di tradizione e innovazione, in quanto riprende i canti di preghiera tipici, diciamo, del Senegal, li mischia con comunque delle il nuovo sound. Poi il Ray Charles senegalese, quello che fece Ray Charles con il gospel, utilizzava le strutture armoniche tipiche del gospel per poi cantare testi che utilizzavano delle tematiche laiche. Proprio così. Proprio così, quindi il Ray Charles del Senegal, penso un po' dove siamo andati a finire. Bene, Yusundur arriva in Italia con un bellissimo concerto in una piazza che gli italiani conoscono bene anche per altre vicende. Tra l'altro bisogna anche dargli del lei, perché dal 2012 è ministro della cultura del Senegal. E quindi dove andremo a vedere il ministro della cultura senegalese? Proprio questa sera si esibirà a Brescia, a Piazza della Loggia. A Piazza della Loggia, e poi altri concerti da noi? Invece il 22 sarà a Trento per la rassegna Il suono delle Dolomiti. Ah, eccolo qui, quindi due bei concerti in Italia per Yusundur, assolutamente da non perdere, meravigliosa performance di questo grande artista senegalese. E per chiudere questa prima parte del soundcheck, visto che poi torneremo intorno alle 19:15 con la seconda parte, quella più jazz, direi di dare visibilità sonora a una composizione meravigliosa con protagonista la creatività musicale di un genio italiano, ovvero quello di Ennio Morricone, perché ogni tanto il maestro Morricone tira fuori il naso, lo mette anche fuori dall'uscio di casa dove di solito compone le sue bellissime melodie per il cinema, perché ha bisogno di pubblico, no? E di dirigere personalmente l'orchestra guidando i grandi professori d'orchestra che compongono i suoi organici in queste cavalcate di melodie infinite proposte durante le sue operazioni cinematografiche. Sì, il premio Oscar Ennio Morricone sarà il 22 a Laiatico, in provincia di Pisa, si esibirà al Teatro del Silenzio. Teatro del Silenzio, è bello, Teatro del Silenzio per la musica di Ennio Morricone, che chiude quindi la prima parte del nostro soundcheck. Sei soddisfatto della musica che abbiamo suonato? Tantissimo. Sono contento. La chiusura sinfonica. Chiusura sinfonica, ma poi questa melodia, dai, che cosa vuoi dire? Questo tema è stato scritto da Ennio Morricone per la colonna sonora di un capolavoro della cinematografia di tutti i tempi, ovvero C'era una volta in America, tra l'altro film diretto da un altro italiano illustre. Sì, Sergio Leone. Sergio Leone, e c'era un meraviglioso attore. Robert De Niro. Allora, Ennio Morricone, il brano è il tema di Deborah's Theme, Ennio Morricone al soundcheck di Radio 24, ci sentiamo più tardi. Check one, two, mic check, one, two, mic check, one, two. Sound check. Microphone check. Il suono della musica di DJ Telesforo. Ladies and gentlemen, pronti per la seconda parte del soundcheck, la prova del suono di Radio 24. Buonasera a tutti voi da GG Telesforo e buonasera al nostro Francesco Tromba. Buonasera a tutti. Hai inserito il file ricco di swing per questa seconda parte? Sì, è già inserito. Già inserito. Allora, visto che siamo arrivati agli ultimi appuntamenti del soundcheck, vorrei ricordare che il prossimo weekend sarà l'ultimo weekend per questa prima stagione. Chiuderemo in bellezza, mi auguro, mesi di musica, di nuove proposte, di scorribande fra swing, funk, R&B e tutto quello che abbiamo suonato. Poi la prossima settimana magari diamo anche un po' di numeri fra interviste fatte e musica che abbiamo proposto qui a Radio 24. Però sei pronto per lo swing per questa seconda parte? Prontissimo, sempre pronto. Allora, io pensavo questo appuntamento del nostro soundcheck, in questo appuntamento di dare visibilità sonora a alcuni dei protagonisti di questa prima stagione della prova del suono di Radio 24. Che dici? Sì, diciamo un po' il meglio della stagione. Una sorta di the best, ma sai, abbiamo suonato tanta musica e quindi abbiamo adesso a disposizione, che so, quanti brani? 5-6 brani da mettere in onda? Eh sì, infatti sono state delle scelte molto difficili. Una scelta difficile da fare, ma purtroppo è un lavoro che qualcuno doveva fare. Eh sì, poi alla fine le classifiche, in un certo senso, il best of è sempre... Ma ho lavorato in questo modo, sono andato a vedere nelle email che sono arrivate al nostro indirizzo di posta elettronica soundcheck@radio24.it le richieste di informazioni sui vari brani che abbiamo messo in onda, e quindi matematicamente, automaticamente e naturalmente è venuto fuori l'airplay che suoniamo adesso. Beh, un discreto airplay mi pare, no? Un discreto airplay. Allora partiamo proprio col ritmo tipico di New Orleans, il famoso second line, te lo ricordi perché si chiama second line, il ritmo tipico di quella bellissima città della Louisiana? Non perfettamente, perché nelle marching band, quelle che sfilano nei cortei, che suonano ai funerali, ai matrimoni, la seconda linea di rullanti suona questo ritmo tipico, e che si chiama second line, che è una specie di clave cubana però con gli accenti spostati. Comunque, tornando al second line, un appassionato di questo ritmo è il sassofonista Craig Handy, che ha avuto un'idea geniale. Siccome a lui piace anche il suono dell'organo Hammond, come ha intitolato il nuovo disco? Second Line Smith. Perché? Perché Jimmy Smith è il suo organista di riferimento, e quindi anche qui 2 più 2 fa 4, second line e Smith per il maestro Craig Handy, che per questa versione un po' New Orleans contemporaneo di On the Sunny Side of the Street chiede la partecipazione della nostra amica Didi Bridgewater, che apre il soundcheck Very Jazz questa sera qui su Radio 24. Piacevolissimo Second Line Smith, album del sassofonista Craig Handy, qui per On the Sunny Side of the Street con la partecipazione della bravissima Didi Bridgewater, un album prodotto dall'etichetta OK e quindi distribuzione della Sony in tutto il mondo. Non si placa nel nostro paese il desiderio di ascoltare musica jazz, si è concluso in bellezza Umbria Jazz Festival, ma c'è ancora tanta musica in arrivo, tanta musica da ascoltare. Sì, lo Stresa Festival che sarà in... Oh, nella bellissima cittadina di Stresa in Piemonte, che cosa succede? Dal 24 al 27 ci sarà una rassegna dedicata al jazz e poi successivamente fino al 6 settembre si punterà più sulla musica classica e sinfonica. Abbiamo anche qualche nome da lanciare? Sì, il 25 ci sarà Gonzalo Rubalcaba insieme ad Aldi Meola. Bellissimo. E il 26 un gruppo che si chiama We Three, composto da David Liebman al sax, Steve Swallow al basso elettrico e Adam Newsman alla batteria. Adam Newsbaum. Sì, poi ci sarà anche Joshua Redman col suo quartetto il 27. Ecco, e mi tocca andare a Stresa, guarda. Eh sì, bisogna andarci assolutamente. E infine il 28 ci sarà anche John Scofield insieme alla sua Uber Jam Band. E questo è anche un concerto da vedere, perché hai fatto i nomi di alcuni veterani, a parte Joshua Redman che fra questi è senz'altro il più giovane, ma John Scofield è da non perdere, perché ha tanti anni di esperienza e una mentalità sempre proiettata al futuro, e poi i musicisti della nuova generazione che suonano con lui fanno venire i brividi. Questi signori groovano sul serio. Bisogna prendere il biglietto assolutamente. E il biglietto è andare a Stresa. Allora, intanto noi qui al Soundcheck ascoltiamo un altro disco bellissimo, si intitola Out Here, è un album che io vorrei dedicare agli appassionati di jazz, soprattutto agli appassionati che seguono il suono tipico del jazz, quello del jazz trio, pianoforte, contrabbasso e batteria, che non passerà mai di moda. E questo è proprio un esempio di come si possa swingare al massimo delle potenzialità, perché il contrabbassista è quello che io considero il numero uno per questo genere in questo momento, ma ormai da diversi anni, e si chiama Christian McBride, che si è formato sui dischi di Oscar Peterson e quindi con il contrabbassista Ray Brown, con il quale ha anche suonato, e quindi rende così il suo tributo a questo suono, a questo tipo di pulsazione ritmica. Christian McBride con Ulysses Owens alla batteria e Christian Sands al pianoforte, bravissimi, in un brano intitolato Ham, Hocks and Cabbage, qui al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. For my love will stay in God, your heart will I know the pain that your past has brought in, and will you hold my hand and I stay nuovo in contatto con il Soundcheck di Radio 24, e qui siamo passati a sonorità contemporanee. Il nostro amico Derek Hodge lo abbiamo incontrato, lo abbiamo conosciuto l'estate scorsa quando era in tournée con gli Experiment di Robert Glasper, e ci annunciò della nuova pubblicazione, ovvero Live Today album, che infatti è stato poi pubblicato dalla Blue Note. Quindi complimenti a Derek Hodge per essere approdato anche lui alla Blue Note Records, e complimenti soprattutto per questa bellissima composizione scritta per la voce del vocalist, eccellente chitarrista ma anche bravo contrabbassista Alan Hampton, cantante bianco, che ci ha fatto ascoltare questa composizione di Derek Hodge intitolata Holding On To You. Questo è il Soundcheck di Radio 24. Altri concerti da seguire in Italia o nel mondo? Di cosa parliamo, Tromba? Andiamo a New York. Allora, con Tromba andiamo a New York. Dove? Dove ci porti? Ci sarà VJ Iyer il sabato 26, sabato prossimo. Molto quotato a New York VJ Iyer, pianista indiano della nuova generazione. Poi ci spostiamo a Los Angeles. Dove? Direttamente, basta. Direttamente. Quindi a New York c'è solo VJ Iyer. Sì, beh, c'è un pochettino meno di offerta. Però è vero, è così, perché a New York d'estate ci sono pochissimi musicisti. Per quale motivo? Va da sé. Perché tutti comunque vanno in viaggio. Perché vengono tutti in Italia e in Europa, sono tutti in giro per i festival più importanti del mondo, forse in Canada, abbiamo annunciato che in Canada c'erano dei festival strepitosi nelle ultime settimane, però soprattutto in Europa, quindi vengono tutti qui e a New York troviamo solo VJ Ayer. Andiamo a Los Angeles, dove questa sera ci sarà un interessante esperimento, ci sarà Jimmy Cliff insieme a Shaggy e alla Los Angeles Philharmonic Reggae Night. Ecco, ma vediamo i concerti di jazz, visto che ci troviamo nella seconda parte del soundcheck. Qua vedo Ron Carter Trio, attenzione, eh? Sì, il 24 e il 25 al Catalina Bar and Grill. Ecco, è un jazz club elegantissimo che si trova lì a Hollywood, a Los Angeles, ci sono stato, e naturalmente preparate la carta di credito perché è un po' salato come club, eh? Eh sì, diciamo che bisogna spendere. Infatti il pubblico va dai 50 in su, lo voglio dire. Bisogna avere una certa dichiarazione dei redditi. Bravo, bravo. Invece ci spostiamo in Europa, a Parigi, dove il 24, giovedì 24 al New Morning, ci saranno Mike Stern e la band di Bill Evans. Il 25 e il 26 invece, sempre a Parigi, al Sunside, Jackie Terrasson Trio. Ecco, e chiudiamo sempre a Parigi con Joshua Redman. E lo vedi, sta dappertutto, anche lui richiestissimo. Ma d'altra parte, quando si suona a quei livelli, dove si trova a Parigi il quartetto di Joshua Redman? Ci sarà la chiusura del Parigi Jazz Festival all'Espace Delta. Allora, invece noi passiamo ancora una volta al suono contemporaneo, un altro disco molto interessante per noi del Soundcheck qui su Radio 24, ma è un disco anche che è andato molto bene per quanto riguarda le vendite e il download via iTunes, è il progetto Meliana. Il progetto Meliana, quello guidato da due protagonisti della scena contemporanea come il pianista Brad Meldau e Mark Guliana, si sono accoppiati musicalmente e hanno creato quindi Meliana. Questo è il figlio il prodigo, posso dire così? Sì. Discograficamente parlando dei due signori, il brano che ho scelto per voi si intitola Sassy Acid Sassafras. Che diavolo di titolo per questi due? Soundcheck, il suono della musica. Racine Haiti, e questo è il titolo dell'album di Jacques Schwarzbart, secondo me uno dei dischi di jazz contemporaneo fra i più belli dell'anno, da non perdere per questo sassofonista che ha origini haitiane e quindi con i suoi musicisti celebra la musica con le radici di quella isola interessante e magica con questo progetto nuovissimo. E qui Jacques Schwarzbart, con alle spalle tanta musica fatta in Africa, dove ha vissuto con i suoi genitori che sono due autori di libri importanti, tanta musica fatta anche negli Stati Uniti, anche con band non così vicini al jazz, band di R&B e soul come D'Angelo e Rick Abatu, Jacques Schwarzbart incontra la voce di Stephanie McKee, che invece ha suonato con D'Angelo ma anche con Roy Hargrove e gli RH Factor, in un brano intitolato Contre Dance. Ti piace? Hai notato come è migliorata la mia pronuncia francese? Eh sì, stai migliorando. E non ti posso dire perché, perché sto studiando, perché presto andrò a Parigi a fare i concerti, quindi voglio fare una bella figura. Devi scrivere qualche canzone in francese allora. Questo non lo so, è improbabile, però ci devo andare adesso, ci andrò a novembre a fare dei concerti, ma abbiamo ancora un po' di tempo. Quindi siamo in chiusura, ladies and gentlemen, abbiamo chiuso anche questo appuntamento del soundcheck, ancora qualche minuto a disposizione. Per esempio, qual è uno dei dischi che hai ascoltato con una certa effervescenza quest'anno? Ah, io devo dire, quello che hai nominato tu è secondo me uno dei più interessanti, ma anche quello di Jacques Schwarzbart. Esatto, ma anche quello di Pat Metheny è molto... Keen, stai dicendo? Esatto. Eh beh, Keen è un disco molto bello, anche se è un disco difficile, eh? Eh sì, non è facilissimo, però... Un disco non per tutti, insomma, Pat Metheny spinge sull'acceleratore per quel che riguarda la composizione, le strutture complicatissime, gli arrangiamenti veramente difficili, ma la cosa bella è che con la Unity Group, ovvero la formazione che guida da un po' di tempo, quella alternativa al Pat Metheny Group, sempre con Lyle Mays, ma qui nello Unity Group invece abbiamo Chris Potter al tenore, Ben Williamson al contrabbasso, il formidabile Antonio Sanchez alla batteria è un italiano, ti ricordi come si chiama? Non me lo ricordo. Giulio Carmassi, guarda, te lo devi scrivere, ti faccio fare una paginetta con Giulio Carmassi 100 volte, perché questi sono nomi di italiani che stanno facendo la differenza. Questo ragazzo suona di tutto, dalla batteria, le percussioni, il contrabbasso, il violoncello, la chitarra, canta, flauto traverso, sassofoni, la tromba, e canta benissimo. Giulio Carmassi con Pat Metheny Group ha avuto grandissimo successo durante i concerti con Pat Metheny in Italia, sold out dappertutto. E allora chiudiamo con Keen, l'album nuovo di Pat Metheny. Il brano è bellissimo e si intitola We Go On. Noi ci risentiamo quando? La prossima settimana, sabato prossimo. Sabato prossimo a partire dalle 19, e tra l'altro ultimo weekend per il soundcheck di Radio 24. A tutti voi buona serata, buona settimana e buona musica da Gigi Telesforo e Francesco Tromba. Bravo, hai visto, indovinato.